Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Vertigo, una sensazione di torpore, giramento di testa. In senso figurato, una sensazione in cui tutte le cose sono immerse in uno stato di terrore. Avete appena sentito, intanto buongiorno da Nicoletta Carbone, benvenuti, è il trailer di La donna che visse due volte, il titolo originale era Vertigo, un film del 1958 diretto da Hitchcock e interpretato da James Stewart e Kim Novak. Il film, ve lo ricorderete sicuramente, parte dalla storia del poliziotto John Ferguson, Scotty per gli amici, che scopre di soffrire di vertigini dopo che durante un inseguimento sui tetti di San Francisco rischia di precipitare nel vuoto, perché rimasto aggrappato da una grondaia che lo stava facendo cadere. In seguito lo conoscete bene, ma questo ci dà lo spunto per introdurre il tema di oggi. Oggi infatti parliamo di vertigini. Ci sono situazioni anche molto meno pericolose, capaci di farci girare la testa, di darci, come si dice, le vertigini. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Franco, stamattina mi sono alzata e mi girava tutto. Il mondo mi cadeva addosso, non avevo pace in alcuna posizione. Guarda, non sai come si sta male. Uno spavento. Non finiva mai, sarà durato un paio d'ore. Ma come, Anna? Hai mai sofferto di mal di mare? Sì, certo. Bene. Peggio, come tre mal di mare insieme. Ma ti era già capitato? Ma no, soffro di vertigini quando salgo in alto, ma non guardo e non ho problemi. Ma giravi tu o girava la stanza? Tutte queste domande mi fanno girare la testa. Invece di interrogarmi, aiutami. E noi ci facciamo aiutare dal professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio, vestibologia e rieducazione vestibolare dell'azienda di Carpi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, Anna, la nostra Anna era un po' provata e anche un po' nervosina, ma il povero Franco come poteva aiutarle? Logico, lui gli ha fatto delle domande, forse le stesse che farebbe anche lei, professore. Beh, la prima domanda è la più giusta di tutte, perché se vedevano girare tutto il mondo intorno, vuol dire che grandi rischi di patologie gravissime non ce n'erano. Bene. Di solito è un problema di vertigine. A proposito, è carinissimo il discorso di Patty Pravo o di James Stewart nel film di Hitchcock, perché però ci sono due condizioni in cui uno avverte veramente la sensazione di vertigine dispiacevole, e quando non riesce a controllare la situazione. Pensi invece che i bambini cominciano a fare il giro tondo, a fare il capriolo, eccetera, controllandolo, hanno emozioni simili ma non ne hanno paura. Infatti mi arriva subito un sms anonimo al 349-238-6666, mi dice: ma che differenza c'è tra vertigine e paura dell'altezza, professore? Beh, la vertigine vera è una sensazione francamente patologica, cioè la sensazione che tutto il mondo giri è provocata da un disturbo all'interno del labirinto nel 90% dei casi, cioè dentro l'orecchio interno, mentre la paura dell'altezza è più che altro, come dice la parola stessa, un fenomeno psicologico, cioè di paura, quasi sempre, e quindi un fatto più vicino a una fobia che non a una malattia dei nervi, ecco, degli organi. E la chiamano vertigine per abitudine, in effetti, ma sono due cose diverse. Il termine tecnico sarebbe acrofobia, cioè paura dell'altezza. Senta, professore, ma le vertigini arrivano sempre come fulmini a ciel sereno? Oppure ci sono, a saperli riconoscere, dei segnali anticipatori? Beh, ci sono malattie che, diciamo, alcune cause, voglio dire, di vertigine che arrivano veramente a ciel sereno, sono anche le più frequenti, per essere sinceri, cioè sono patologie come problemi vascolari acuti nei capillari dell'orecchio, oppure infiammazioni del nervo vestibolare provocata da virus, oppure la formazione di microcalcoli nell'orecchio. Quelli di solito arrivano, diciamo, in maniera acuta, imprevedibile. Altre volte invece ci sono malattie che, siccome con concomitano altre zone che soffrono, per esempio la parte dell'orecchio deputata all'udito, ecco, magari hanno come segni premonitori un calo o una fluttuazione dell'udito in un orecchio, non in tutte e due, di solito in uno solo, oppure un rumore forte in un orecchio. Ecco, di solito questi possono essere dei segni premonitori. Possono colpire tutti, ma vogliamo dare subito una buona notizia? Sì, la diamo subito. Che in realtà, perché noi vogliamo parlare di salute. Sì, diciamo che insomma in linea di massima le vertigini sono curabili e non esprimono malattie gravi. La cosa importante però è curarle in fretta e bene, perché altrimenti c'è il rischio che recidivino, questo sì. Senta professore, possiamo fare una sorta, tratteggiare una sorta di identikit della persona più a rischio di vertigini? Sì, le persone più a rischio di vertigini sono... certamente, intanto le donne, per motivi che diventa difficile. Perché questa la fa ridere? Io non ho capito. Perché dire che la donna è più a rischio di vertigini fa pensare a tutto, al contrario di tutto, in realtà non lo sappiamo con precisione, insomma, del perché lo siano, però è un dato di fatto. No, molte volte si diceva ce l'hanno perché le donne più facilmente hanno delle componenti emozionali importanti, invece no, effettivamente anche le malattie vere, insomma, colpiscono più spesso le donne, quasi. Malattie dell'equilibrio, intendo. Naturalmente il soggetto anziano, perché è più facile che abbia problemi vascolari, quindi che abbia delle situazioni di difficoltà di irrorazione dei capillari dell'orecchio. E poi i soggetti emicranici, quelli che soffrono di emicrania vera, hanno una maggiore probabilità di avere patologie di questo tipo. Per il resto può colpire chiunque. Anche i bambini? Sì, lei anche dice... i bambini. E di solito nei bambini, esclusi pochi casi veramente sfortunati di malattie gravi, di solito sono fenomeni veramente gravi a carico del cervello, escluso questo, si tratta quasi sempre di forme equivalenti a un attacco di mal di testa con gli stessi meccanismi, quindi assolutamente benigne. Andiamo a Parma, c'è Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io vorrei che lei mi dicesse che soffriva di vertigine ed è riuscita a guarire e sta bene. No, non è così. Allora, grazie al cielo il problema delle vertigini non è così catastrofico. Effettivamente, bene, a certe altezze subisco degli sconquassi proprio emotivi, cioè io devo fare veramente un passo indietro perché inizio ad avere dei capogiri, del senso di mancamento, quello è banale, però la cosa che volevo chiedere al professore è che ho scoperto anni fa, io ho avuto uno shock, diciamo, psicofisico, ho avuto degli attacchi di panico di conseguenza. Quando soffro di vertigine alle grandi altezze, io risento dal punto di vista fisico degli stessi identici sintomi che ho quando ho gli attacchi di panico, quindi questi capogiri, si accelera il battito, mi si gonfia la pancia, cioè proprio il fisico reagisce in maniera, presumo sia un'autodifesa chimica, si scatenano delle sostanze simili, identiche agli attacchi di panico. Chiedevo se c'era un nesso, se diciamo le sostanze liberate dal punto di vista chimico sono identiche per quanto si soffre di vertigini con gli attacchi di panico. Professor Guidetti. Ha detto una cosa giusta, anzi l'ha inquadrata molto bene, purtroppo è proprio un meccanismo neurochimico, adesso è difficile starlo a spiegare in termini tecnici, però diciamo che fa riferimento a quello che generalmente possiamo identificare col termine di memoria traumatica, cioè chi ha avuto delle esperienze vertiginose poi accumula nella propria memoria questa esperienza, e se è un soggetto predisposto verso l'ansia con grande facilità poi dopo ha la sensazione di riviverle, anche quando non sono esattamente identiche, insomma, quindi si scatenano tutti quei sintomi. Certo, è abbastanza frequente. Andiamo a Bergamo, c'è Stefano. Buongiorno, volevo raccontare un attimo la mia esperienza. Anch'io penso soffrisse di acrofobia, nel senso che avevo un certo timore d'altezza e questo mi infastidiva molto. Ho passato delle ore sulle piattaforme in piscina nel tentativo di tuffarmi, ma non ci riuscivo mai. Finché ho deciso una terapia traumatica, nel senso che un giorno ho saputo che c'era un vicino, una località vicino a casa, facevano del bungee jumping e mi sono armato di tutto coraggio che avevo, sono andato e l'ho fatto. Devo dire che da quell'esperienza traumatica per certi versi, dopo questa esperienza non ho più avuto. Senta Stefano, mi racconta già che lei l'ha fatto, che cosa si prova? Ma guardi, la fase più traumatica è il momento in cui si ha la percezione di non poter più tornare indietro, cioè quella frazione di secondo in cui lei è troppo sbilanciata in avanti per tornare indietro. Dopodiché la caduta, in quel caso mi pare fossero circa 80 metri di caduta in un fiume praticamente, il momento in cui si cade è molto, direi quasi rilassante, poi quando si ritorna su invece entra in gioco la fase del divertimento, ma la fase più traumatica è quella in cui lei si rende conto che ormai è troppo tardi per tornare indietro perché è troppo sbilanciato verso il vuoto. Ecco, Stefano, quante volte l'ha fatto? L'ho fatto 2 volte. Ci sarà una terza? No, penso di no. però ha risolto il suo problema. Devo dire che da allora io non ho più avuto quel timore che avevo andando ad esempio in piscina e volendomi tuffare. Ecco, se non altro può diventare un buon tuffatore. Sicuramente ho migliorato. Professor Guidetti, una terapia d'urto questa. È bellissima quello che ha detto. Che ci racconta Stefano. Ma è bellissimo perché corrisponde a quello che ci siamo detti qualche istante fa, cioè la vertigine come paura, come elemento fobico, è controllabile abitualmente con dei meccanismi di allenamento specifico a abituarsi a controllare la situazione. Lui l'ha fatto in modo acuto, ma si può fare anche con adeguati strumenti, con una riabilitazione progressiva, di habituation si dice in termine tecnico, cioè di abituarsi a considerare quel fenomeno non più così sconvolgente perché non controllabile, lo si porta progressivamente alla capacità di controllo e quindi dopo si passa al limite al divertimento, come diceva lui, nella fase di risalita. Si può essere addirittura poi tornare a essere bambini e usare queste emozioni non per spaventarsi ma per divertirsi. Musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te. E noi vogliamo, in linea con noi abbiamo il tenente colonnello Luciano Ippoliti, pilota in servizio presso il reparto sperimentale volo dell'aeronautica militare. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E Giovannotti dice che il vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Voi quanto volate? Tantissimo, almeno si spera. E Giovannotti ha ragione, perché la vertigine non ha nulla a che fare con la voglia o la paura di volare, assolutamente no. Senta, ma che cosa si prova quando si è su così in alto? Noi siamo fatti per, no, professor Guidetti, anche immagino quindi il nostro orecchio, la nostra centralina dell'equilibrio, è stata proprio fatta e costruita per permetterci di passeggiare sulla terra. Vorrei sapere dal tenente colonnello Ippoliti che cosa succede all'equilibrio di un pilota quando vola così in alto. Che cosa succede? Guardi, sostanzialmente, come penso avrete già detto in studio, le vertigini, noi tutti piloti siamo esenti da quelle vertigini di carattere clinico, ovvero quelle malformazioni dell'apparato vestibolare che di fatto prevengono una persona di diventare pilota. Sì. Quindi parliamo di disturbi proprio di malformazione dell'apparato vestibolare. Detto questo, però, è pur vero che di vertigini soffriamo anche noi, che si manifestano tuttavia in un paio di modi diversi, che deve essere il comune mal d'aria, ovvero la nausea che si prova quando si va in volo. Ah, che è una specie di mal di mare però in aria, quindi ce l'avete anche voi. Esattamente, ma diciamo che però si supera di solito molto brevemente con una fase addestrativa iniziale e diciamo più o meno velocemente, quindi si superano questo tipo di malessere e si sviluppano quindi tutte le capacità che riescono appunto a compensare a questo tipo di vertigine. Senta, però posso chiederle già subito un aiuto? Per chi ad esempio non vola come voi ma ogni tanto in volo sente questo mal d'aria, lei ha un suggerimento pratico da fare subito? Non so, chiudere gli occhi, mangiare qualche cosa, che cosa si può fare? posso me lo dare dica lei che sono che le raccomandazioni che noi diciamo ai nostri piloti all'inizio della loro attività volativa, ovvero innanzitutto quello del mal d'aria è anche un fenomeno psicologico, nel vero che se uno non pensa di avere mal d'aria prima di andare al volo probabilmente lo avrà, quindi sì, diciamo è anche una certa predisposizione, quindi sicuramente pensare che questo è un problema realmente superabile. Sì. Detto questo, sicuramente quello che raccomandano anche i nostri dottori è quello di non andare mai in volo a stomaco vuoto, sì, anche perché questo non fa altro che accentuare questo tipo di malessere, e poi sostanzialmente quello di rilassarsi, quindi di godersi il volo piuttosto che subirlo. Questa è un'altra delle tecniche che sicuramente sono vincenti da questo punto di vista. Ma oltre al mal d'aria, è vero che i piloti possono soffrire di una sorta di, lo metto tra virgolette, lei mi correggerà, disorientamento spaziale? Sì, esattamente. Che succede? Probabilmente questo è il fenomeno più pericoloso per chi vola. Sì. Questo sì, si ha quando c'è ridotta visibilità, quindi sostanzialmente c'è un conflitto fra gli organi sensoriali dell'apparato vestibolare e l'occhio, quello che vede l'occhio. Quindi quando l'occhio non vede più, sostanzialmente l'apparato vestibolare dà delle condizioni, delle sensazioni del volo che potrebbero essere in conflitto con la realtà, sì, della situazione. Anche questo fenomeno comunque è sorpassabile, superabile con l'addestramento, quindi l'esperienza di volo fa una grossa differenza, e sostanzialmente tutti gli apparati di controllo dell'assetto, della velocità, della quota dell'aeroplano sono gli apparati che vengono sviluppati in modo tale che il pilota possa appunto vedere questi apparati, quindi credere in loro e condurre il volo, a prescindere da quello che sono le sue sensazioni, certo. Esattamente, dalle sensazioni provenienti dall'apparato vestibolare, ecco, appunto. Quindi siamo tranquilli. Assolutamente. Più che tranquilli. Grazie al tenente colonnello Ippoliti per essere stato con noi. La saluto e la ringrazio. La ringrazio, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Arrivederci. Professor Guidetti, è vero che proprio partendo dalla ricerca che voi avete fatto sulle vertigini, quindi su tutti i meccanismi dell'equilibrio, siete poi riusciti, state riuscendo a trovare un metodo per una guida sicura? Noi dai cieli passiamo sulle strade, e quindi di ridurre sempre di più il rischio sulle strade? Certo, ed è esattamente il ragionamento che ha fatto il tenente colonnello prima. Sì. Cioè ci sono, mentre noi ci muoviamo, ci spostiamo con qualsiasi mezzo di locomozione, dalla nave all'aereo alla moto, abbiamo sempre una serie di informazioni che provengono dagli occhi, sì, dal labirinto soprattutto, dall'occhio, anche dagli organi tipo i muscoli e articolazioni, ma soprattutto dagli occhi e dal labirinto. E si tratta di imparare a ottimizzarli, perché se si usano male, chiaramente si fanno degli errori, cioè si ha una strategia di guida sbagliata, e la cosa più importante durante la guida è certamente quella di avere sempre l'occhio posizionato nel punto giusto per garantire una giusta traiettoria, perché se invece si comincia a guardare a destra e a sinistra, sopra, sotto, questo succede per esempio tipicamente ai soggetti ansiosi, ma non solo, anche agli inesperti, se si muovono molto gli occhi si perde assolutamente il controllo della traiettoria, e soprattutto non si riesce ad avere una reattività giusta ad eventuali fenomeni che possono in qualsiasi momento scatenarsi, per esempio qualcuno che ti taglia la strada o qualcuno che ti tenta di sorpassare in modo sbagliato. Quindi è fondamentale avere un ottimo controllo visivo, e questo si ottiene con degli esercizi appositi, con una vera e propria scuola, una strategia di scuola. Vertigini, una canzone tratta dall'album Sulla mia pelle di Noemi. Professor Guidetti, intanto Noemi dà una lettura un po' diversa delle vertigini, no? Ha sentito scosse elettriche, ma lei aveva, ci torneremo perché magari succede anche così, ma lei mi ha detto c'era una cosa curiosa, ho detto mi raccomando non se la dimentichi, se l'hai dimenticata, se no devo rifare una puntata sulla memoria. Beh, siamo sempre a livello di cervello comunque, cioè chi guida è sollecitato da tutto quello che c'è intorno, no? Allora, per esempio, immaginate di guardare gli occhi di uno che guida che sta contemporaneamente percorrendo una strada su cui ci sono dei cordoli a strisce bianche e rosse, per esempio bianche e nere, no? Sì. Oppure che ha davanti dei pannelli in curva, magari dei pannelli illuminati con quelle luci che scorrono, o ancora dei pannelli antirumore. Cosa succede? Che vedrà che gli occhi di questo alla guida hanno dei movimenti come se ballassero, no? E sono quei movimenti uguali a quelli che guardano fuori dal treno in corsa. Sì. Bene, quelli sono dei riflessi di origine visiva, da stimolo visivo, che però rendono più insicura la fissazione, meno precisa la fissazione e il controllo visivo dell'ambiente. E ecco allora che, per esempio, diventa fondamentale che ci siano delle situazioni anche ambientali studiate bene per evitare questi riflessi. Certo. E contemporaneamente, se guardate il vostro vicino che sta guidando, vedrete che fa molti movimenti con gli occhi, ecco bene, anche quello bisogna imparare. Invece questi sono movimenti quasi tutti volontari, oppure se non sono volontari sono suggeriti appunto da uno stato di insicurezza, uno esplora con gli occhi quello che succede intorno. Ecco, un'ottima tecnica di guida consiste nell'imparare a limitare questi riflessi, a limitare anche ovviamente questi movimenti volontari oculari, e che da lì non ci sono problemi, nel senso che lo sanno da tanto tempo i piloti professionisti che meno movimenti oculari fai, più tieni gli occhi fermi, più sei sicuro di andare in modo corretto e anche di avere delle grandi performance, per esempio nelle gare. Sì. Ma ecco, il passo successivo invece quello è che deve interessare ovviamente tutte le persone che non fanno gare, che corrono, non corrono nei circuiti, e per le strade normali potrebbe succedere che ci siano anche persone che non sono perfette dal punto di vista delle capacità di apprendere queste tecniche. Ora, la collaborazione fra piloti e medici esperti nel controllo dell'equilibrio permette di avere appunto una scuola adeguata di controllo sicuro, perché si imparano delle strategie di controllo degli eventuali riflessi che possono condizionare in modo negativo la guida. È quello che faremo nell'autodromo di Modena, che sarà un autodromo di guida sicura, che proprio installerà questi tipi di corsi per la guida sicura. Mi piace. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. E riprendiamo a parlare di vertigini insieme al professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio, vestibologia e rieducazione vestibolare all'ospedale Ramazzini di Carpi, dove, professore, avete veramente un ambulatorio con macchinari super sofisticati per risolvere il problema di vertigini, che, leggendo un po' le descrizioni, a me sembra un po' una sorta di Disneyland. La maschera che consente di registrare i movimenti oculari al buio, le pedane che si muovono in tutte le direzioni, le sedie che ruotano su se stesse, e poi avete anche un effetto discoteca. Non so se avere paura o trovarlo come una cosa divertente, perché, no, sembra un po' di andare sulle giostre. È così? Esatto. E infatti il meccanismo è identico. Allora, a scopo diagnostico, quando un paziente entra e dice mi devo sottoporre a certi test, a scopo diagnostico, entra con lo stato d'animo che dicevamo prima, un po' di preoccupazione, le vive magari male, poi in realtà sono sopportabilissime, non sono fastidiosissime. Quando usiamo le macchine, in parte di queste servono anche, anzi soprattutto, a scopo riabilitativo, proprio per fare quegli allenamenti specifici alla malattia, a poche parole, nei soggetti che hanno il disturbo cronico, questi tipi di stimoli servono per fare allenamento specifico a sopportare meglio la malattia, no? Sì. Ecco, quando comincio un giorno, due giorni, tre giorni a fare questi esercizi, poi fanno come l'amico che si buttava con la fune e poi nella fase di risalita stava meglio, no? Anzi, pure si divertiva. Infatti sono poi sostanzialmente dei videogiochi, alla fine sono sorti di videogiochi a cui si prende anche gusto e divertimento, e questo aiuta poi a migliorare anche lo stato d'animo e a sua volta a migliorare la sensazione di disturbo d'equilibrio. Ma professore, che differenza c'è tra un attacco di vertigine improvvisa che non trova alcuna spiegazione, come un fulmine a ciel sereno, e invece quella legata solo a determinati movimenti, ad alcune posizioni posizione che assumiamo? Mi viene questa domanda leggendo i tanti sms che arrivano di ascoltatori che mi dicono: mi viene la vertigine tutte le volte che sto seduto e mi alzo in piedi all'improvviso, oppure al mattino prima di mettere il piede giù dal letto vedo che ho queste sensazioni di capogiro, girandomi anche nel sonno mi sveglio perché ho una vertigine. Insomma, potrei leggerne tante da farne un manuale. Allora ho pensato di dividere, no, queste due situazioni: una vertigine che non trova spiegazione da una invece legata o che si ripete in particolari circostanze. Professore. Giustissimo. Allora, diciamo, ma guardi che lei è carino, è giustissimo. Se gli ascoltatori hanno la fortuna di essere in grado di differenziare due condizioni, e di solito lo sono, possono da sole rassicurarsi. Allora, se la vertigine è la sensazione che i mobili ti vengano addosso e il soffitto cominci a ballare, e questo è scatenato esclusivamente da movimenti, e stando immobili, per esempio non girandosi nel letto, non sdraiandosi, non alzandosi, non c'è nulla, 90% di probabilità di avere una patologia molto diffusa, molto comune, tranquilla, che è la formazione di microcalcoli nelle orecchie. Sì. Si risolve con manovre liberatorie, attenzione, fatte in ambiente specialistico da mani esperte. Altrimenti si fanno delle sciocchezze. E se invece la sensazione non è questa così violenta, ma hanno la sensazione generica che avete provato in tanti quando siete stanchi, non so, piegando la testa e poi rialzandosi, di avere un attimo così, quelli che a Modena chiamano i balordoni, no? Queste sensazioni che le varie culture, conoscendo benissimo locali, usano esprimere con terminologie diverse. Ecco, quando ci sono queste sensazioni, 90 volte su 100 si tratta o di fenomeni banali di sbalzi di pressione, appunto quando uno è stanco, la pressione è bassa, quando c'è caldo, eccetera, oppure, ecco, bisogna fare un po' più di attenzione: se un soggetto non è né stanco né affaticato né non ha sbalzi di pressione che conosce, conviene fare due chiacchiere con un cardiologo per assicurarsi che non abbia fenomeni antipatici come quella cosiddetta ipotensione ortostatica o qualche problemino a livello cardiaco, ma sono più rari. Allora, avrei Serena che ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno Serena. Buongiorno e grazie per avermi richiamata. Dunque, a me è successa una cosa un po' particolare. Io in gioventù facevo roccia, dunque mi arrampicavo in alto e poi mi sono lanciata col parapendio senza quasi nessun problema. Sì, ne ha fatte di ogni, come si dice, Serena. Sì, quasi. Allora, dopo aver avuto due bimbi, dunque ho passato 6 anni di quasi completa inattività da questo punto di vista, no? E poi diventati grandicelli bambini abbiamo provato l'esperienza dell'acropark, ponti tibetani, così ero contentissima, però arrivata su in cima dopo aver fatto la scaletta non ho più avuto il coraggio di andare avanti, non ce l'ho proprio fatta, è stata una cosa... Anche Maria, da Bologna mi scrive: gita le giostre sulle tazze rotanti, alla fine le mie bimbe 8 e 10 anni felicissime, io quasi da ricovero. Professor Guidetti, allora Serena e Mario da Bologna, due situazioni per alcuni versi un po' simili. No, simili, realmente simili, sì, sono situazioni simili, sono legate al fatto, prendiamo la seconda, che a parità di stimoli i bambini hanno imparato a considerarli non pericolosi ma vivibili come divertimento, e quindi hanno una regolazione dell'emozione conseguente che va nella direzione del divertimento stesso. Sì. Mentre il papà, un po' preoccupato magari dalla situazione, non è sicuro di riuscire ad affrontarla e quindi ha un programma, diciamo, nel suo cervello che lo porta progressivamente a un senso di insicurezza e di paura, fino a può avere anche nausea e, certo, e fastidi maggiori. La stessa cosa vale per Serena, chi ha fatto esperienze, sì, esatto, che ha imparato a controllare benissimo in particolari condizioni, ma quando le condizioni cambiano non succede più. Nel film di cui abbiamo parlato all'inizio c'è una scena che da questo punto di vista è fantastica, cioè c'è questo signore, questo James Stewart, che deve che era un gran bell'uomo sì, però aveva una donna vicino nel film che era veramente terribile, perché per insegnargli a controllare l'acrofobia, cioè la paura dell'altezza, lo fa salire progressivamente su una scaletta a pioli, no? Sì. E questo comincia a fare il primo gradino e si trova bene anche muovendo la testa, tutto tranquillo. Poi fa il secondo gradino e si trova bene, tutto contento. Lei dice: fate anche il terzo, fate anche il quarto. Lui li fa e tutte le volte si trova bene. Poi all'ultimo gradino fa l'errore di guardare verso il basso, fuori dalla finestra, e lì cade, si vede come cade. E il meccanismo, dal punto di vista scientifico, è abbastanza semplice. Noi ci abituiamo a una condizione, ma se ci sono delle variazioni all'interno di questa condizione, anche modeste, in questo caso un segnale di altezza che lui non valutava perché guardava fuori dalla finestra, ecco che la nostra abitudine non è più sufficiente a garantirci il controllo della situazione. Certo. Quindi bisogna imparare a fare esercizi specifici o a scegliere delle donne. Esatto. Che siano non perfide. Sì. Noi abbiamo iniziato a volare, adesso poi volevamo atterrare, volevamo farlo sulle punte, e lo facciamo perché in linea con noi abbiamo Raffaele Paganini, attuale di fama internazionale. Buongiorno. Ma buongiorno, piacere. Ma che piacere mio. Senta, ma se io le dico vertigini, lei cosa pensa? A parte il film di Hitchcock, a parte la canzone di Noemi o quella della frase di Jovanotti su Mi fido di te, che cosa pensa un danzatore alla parola vertigini? Allora, il danzatore alla parola vertigini, gli vengono veramente le vertigini, perché cosa succede? Se un danzatore ha le vertigini e deve eseguire un manège, il manège sarebbe tutto un giro intorno al palco con una velocità estrema, se ha le vertigini quando fa la preparazione per il grande salto, ha dei grossi problemi. A noi spesso succede questo nei danzatori, succede che facciamo tutte le evoluzioni a terra e vanno bene, però poi quando saltiamo in aria, alcuni di noi hanno le vertigini e non possono ballare, può diventare un grave problema a livello proprio professionale. E lo credo, a lei è mai capitato? A me è capitato, perché le spiego, adesso io non dovrei dire questo perché non dovrei dirlo io, però io sono di natura un ballerino e un saltatore, sono di quei ballerini che fanno grandi evoluzioni in aria. Sì. E mi è successo qualche volta di partire per un grande salto e rimanere troppo in aria e avere una sensazione di vertigini, fortunatamente molto leggera. Per cui poi quando ritorno a terra, diciamo, adesso sembra un po' strano dirlo, però quando ritorno a terra mi riprendo un attimo e continuo. Però noi abbiamo di questi problemi, possono incidere molto nel nostro sviluppo a livello tecnico proprio. Immagino, però io credo, almeno abbiamo sentito anche il pilota e quello che dice il professor Guidetti, anche in questo ambulatorio con tutti questi attrezzi e macchinari, ci si può lavorare su questa sensazione, quindi venirne un pochino a capo, governarla. Succede sicuramente, così. Sicuramente è possibile. Noi non siamo andati così avanti con la tecnologia, perché comunque non ci siamo ancora arrivati. Però sicuramente è possibile migliorare, è possibile fare qualcosa. Oddio, è vero che se un ballerino ha le vertigini, magari sarebbe meglio facesse forse un'altra cosa, perché per un ballerino avere le vertigini è un grande problema. Però ecco, già sapere, io non sapevo che ci fossero dei macchinari, delle cure. Vede che a frequentarci uno impara sempre qualcosa. Saluto e ringrazio Raffaele Paganini, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. È stato un grande piacere, grazie mille. Professor Guidetti, grazie anche a lei del suo prezioso aiuto. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi io mi raccomando, tornate, perché vi aspetto. Se non ci siete voi, io vado a casa. SOS Casa, parliamo oggi dei piccoli infortuni che ci possono capitare dentro le mura domestiche. Oggi diamo spazio alle scottature. È tornato con noi il dottor Lorenzo Moia, medico, ricercatore e vice direttore del centro Cochrane italiano. Buongiorno e bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, io vorrei parlare con lei delle scottature, perché ne ho una fresca. L'altro ieri avevo ospiti a cena, fai di corsa in cucina perché ti aspettano di là, eccetera. Avevo una bella teglia di lasagne, ciaf, l'ho afferrata, mi sono scottata, un male terribile. Tutti dicevano: mettila sotto il ghiaccio, l'acqua, metti il ghiaccio, metti la patata, metti la crema, eccetera. Io la crema non l'ho trovata e insomma adesso è qua. Che cosa si deve fare, dottore? Ci sono due soluzioni. Nel primo caso avresti potuto aprire la tua dispensa e tra i vari barattoli cercare un barattolo di miele. Quello ce l'avevo.